Sarebbe dovuto essere lui nel profondo, il più grosso e il più astuto quel giorno, nel blu per l'onore ed il rispetto di tutte le medaglie che ha cucito sopra il petto. E sembrava pensare ancora di poter galleggiare ancora, e anche per una sola ora. Ancora solo un'ora sola, ancora, ancora un'ora, un'ora sola, solo un'ora ancora. Stanno cantando, chiamando, contando e sperando che ancora qualcuno li ascolti. Nelle profondità del mare, dove nessuno mai lo andrà a cercare, dove nessuno mai lo può trovare, sembra dormire appoggiato sul corallo, enorme di metallo, sembra pensare di potersi risvegliare. Nelle profondità tutti loro avrebbero in quel giorno dal fondo voluto. A sigillare le parole di saluto, le speranze, quello voglio che farà sì che si pensi che di eroi si tratta. Stanno cantando, chiamando, contando e sperando che ancora qualcuno li ascolti. Scriverò parole che probabilmente mai leggerai, ti canterò canzoni che probabilmente mai ascolterai. Nelle profondità del mare, dove nessuno mai lo andrà a cercare, dove nessuno mai lo può trovare, sembra dormire appoggiato sul corallo, e non vedi metallo, sembra pensare di potersi risvegliare nelle profondità del mare. Nelle profondità del mare, dove nessuno mai lo andrà a cercare, dove nessuno mai lo può trovare, sembra dormire appoggiato sul corallo, e non vedi metallo, sembra pensare di potersi risvegliare nelle profondità del mare. Nelle profondità, nelle profondità del mare. Nelle profondità, nelle profondità del mare. Nelle profondità.